28. La truppa schierata alle spalle del ragazzo presentò le armi. Peter avanzò verso il generale. Tamburi e pifferi scandirono i passi. Il sole splendeva alto, nuvole correvano verso est, bandiere garrivano. Era magnifico. Tutta la bellezza della vita marziale racchiusa in una sola scena, la volta del cielo come quinta di teatro. Al termine del discorso, il generale Burgoyne appuntò la medaglia. Il cerimoniale consentiva al decorato una parola di ringraziamento. Guy Johnson sorrise. Senza dubbio il mezzo sangue rendeva onore al nome dei Johnson. La soddisfazione traspariva dal volto del commissario. Ancora un successo da aggiungere al carniere. Dietro l'impassibilità, invece, solo un altro Mohawk avrebbe potuto scorgere il compiacimento negli occhi dei due indiani. Peter aprì la bocca. Il commissario, il principe e l'eremita tesero le orecchie. Una lunga folata percorse la piazza d'armi. Il vento portò via la voce. Giunsero limpide solo le ultime parole. «Sono ancora molti e ben più pericolosi di Ethan Allen. Conosco il mio dovere e per questo chiedo a Vostra Eccellenza l'onore di poter servire il re e il mio paese entrando a far parte del vostro reggimento». Gli occhi del ragazzo brillarono. Gli americani rimasero di sasso. Bastò scambiare un'occhiata per capire che Peter aveva tenuto tutti all'oscuro. Il momento sembrò eterno. Fasciato dall'uniforme rossa, Burgoyne guardò a lungo il giovane come per valutare il peso della richiesta. Poi tradì un ghigno soddisfatto e rifiutò. Peter incassò il colpo senza muovere un muscolo, ma il generale parlò ancora. La voce, abituata al comando, tagliò la piazza d'armi da un'estremità all'altra. «Ogni soldato di Sua Maestà combatteva per il regno e per la propria casa», disse. Per questo il portabandiera Peter Johnson non si sarebbe arruolato in un reggimento che salpava la volta del Canada, bensì nei rinforzi del 26esimo Cameronian, appena distaccati nella colonia di New York. Sarebbero partiti entro 2 mesi. Il giovane eroe avrebbe potuto combattere per la sua terra natale. Peter sembrò ergersi ancor più sull'attenti, come dovesse staccarsi da terra. Gli eventi l'avrebbero trovato saldo al suo posto. Aveva fatto la scelta migliore. Sua madre sarebbe stata fiera di lui. La memoria di suo padre sarebbe stata onorata dalla vittoria sui nemici di sempre. Era giusto così. Era il momento di battere il proprio sentiero di caccia. Philip osservò il volto del ragazzo e ne intuì i pensieri. Era pronto. Non era più voglia di avventura. Non c'era nulla che volesse dimostrare. Aveva varcato la soglia. Aveva trovato un motivo per combattere e l'avrebbe fatto fino in fondo. Era successo lo stesso a lui e a Joseph, tanti anni prima. Toccava a noi portare in guerra il ragazzo. Philip aspettava una reazione simile. Nemmeno lui era contento. Al termine della giornata la malinconia lo attraversava, gravava sulle spalle, ineluttabile. Joseph era scuro in volto. Aveva rifiutato la carrozza e preteso di tornare a piedi. Philip aveva deciso di accompagnarlo nella luce del crepuscolo. Le strade non erano sicure. «È ciò che abbiamo fatto. Per questo Ethan Allen è in catene e il ragazzo può camminare da solo», disse, mentre cercava di evitare le pozzanghere. Si fermò davanti a Joseph e lo guardò negli occhi. «Tu hai detto che dovevamo combattere per il re». Joseph contrasse la mascella. «Io sono fiero che mio nipote combatta nell'esercito del re», disse. «Ma lo volevo al mio fianco. Volevo che combattesse insieme ai nostri guerrieri». Joseph si mosse. Philip lo trattenne per il braccio e continuò a guardarlo in faccia. «Ha scelto di combattere tra i bianchi, la gente di suo padre. Ogni uomo ha una strada assegnata dal cielo». Per un attimo Joseph parve aver perduto l'orientamento. Ombre mostruose strisciavano lungo i muri, insidiose come serpenti. Faceva buio e i lampionai non avevano ancora ultimato il giro. La notte incalzava. Senza più parlare, affrettarono il passo.